ho percorso io senza trovarti mai. Nel buio pesto di questa società che ideali non ha, ossessionato dal pensiero che domani io se potrei, nell'assoluta inattività che la morte ti dà. La verità, quella che viene da te.